9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon lunedì 8 novembre. Il tema oggi obbligato dopo quello che è accaduto ieri alla convention di Futuro e Libertà, ed è un tema obbligato per consentire a tutti di capire meglio la portata, le conseguenze, l'orizzonte anche futuro, al di là delle conseguenze immediate, che comunque non sono molto chiare, delle parole pronunciate ieri da Gianfranco Fini e delle parole pronunciate dall'intero gruppo dirigente di Futuro e Libertà di fronte a migliaia e migliaia di sostenitori. Il senso dell'intervento di Fini è molto chiaro, lo trovate da ieri rimbalzare su tutti i giornali radio e i telegiornali, e Berlusconi si dimetta, occorre un nuovo governo, una discontinuità, l'iniziativa è volta dichiaratamente a coinvolgere, verificare le ipotesi di coinvolgimento nel governo di altre formazioni politiche, non solo a segnare la discontinuità rispetto al Berlusconi fino a questo momento pronto al più a dire ma come, abbiamo già votato i 5 punti in Parlamento, che cos'altro volete, invece a segnare la discontinuità di questo governo, ma a cambiarne anche la formula politica e a innestare sicuramente, viste le citazioni che sono state fatte, per esempio la formazione guidata dall'onorevole Casini, l'intento è dichiaratamente quello di equilibrare non solo la forma che è stata esercitata, come è stata esercitata da Berlusconi fino a questo momento di leadership, ma anche quello di equilibrare esplicitamente il peso della Lega all'interno del governo. Nei confronti della Lega l'onorevole Fini ha riservato battute molto polemiche, e si vedrà a questo punto quale sarà la conseguenza su questa legislatura, prima che sul governo Berlusconi. Avete sentito i ministri della componente di Futuro e Libertà, i ministri e sottosegretari hanno consegnato esplicitamente, accompagnati da salve di applausi, il loro mandato governativo nelle mani dell'onorevole Fini, e la reazione di Berlusconi è per un momento fredda, gelida, votatemi contro. È ovvio che si tratta di misurare fino in fondo la portata che ulteriori sviluppi non concordati potrebbe avere su questo governo, che in particolare al Senato, a differenza di quanto avvenuto poche settimane fa, quando al Senato c'era un'autonomia dei numeri del PDL a prescindere dalla componente dell'onorevole Fini insieme alla Lega, questa stessa autonomia che alla Camera non c'è fin dal primo momento è messa molto in forse dal documento dei 25 e da altri senatori. Oggi i quotidiani italiani tutti aprono su questo argomento, Fini un nuovo governo è il titolo della Stampa, Fini crisi o noi via dal governo è il titolo di Repubblica. I toni sono molto simili, è ovvio che invece gli accenti polemici vengano dai quotidiani vicini a Berlusconi. Il giornale di Vittorio Feltro titola l'ultima raffica di Fini con un occhiello che dice addirittura comica finale, Futuro Libertà licenzia Berlusconi. Ma non v'è giornale italiano indipendente che non si interroghi su quello che avviene il fondo del Corriere della Sera, quello di Pierluigi Battista, dice strappo finale, ma poi perché in realtà la situazione complicata di polemica interna, di indebolimento della premiership, di indebolimento del PDL, di incomprensione all'interno del PDL, della portata radicale della crisi, che è una crisi di leadership personale di Berlusconi, ed è una crisi anche che riguarda la presa che il PDL ha nello stesso elettorato del centrodestra, a furia di essere sottovalutato e non essere affrontato esplicitamente, non fa capire molto bene quali possano essere le tappe di questa crisi. La cosa è sicura, Berlusconi non intende ammettere la crisi della sua leadership personale e la crisi del disegno politico lanciato 3 anni fa, nel novembre di 3 anni fa, col discorso del Predellino, e questo complica molto le cose, perché corre il rischio, di fronte alla debolezza anche del PD, ieri la manifestazione dei rottamatori da una parte, vendola dall'altra da fuori sempre più forte, come testimonia il suo passaggio su Milano, molto applaudito con molti ascoltatori intervenuti, e Bersani che rilancia sulla piazza, ma insomma è evidente che anche il PD non è in buona salute, e tutto questo complica maledettamente la faccenda, cioè corre il rischio di consegnarci a un periodo lungo, molto lungo, di incertezza, a una verifica travagliata nel caso in cui il nuovo governo, con innesto di nuova formula politica e nuove personalità voluto da Fini, non dovesse nascere, è chiaro che Berlusconi non ama molto questa prospettiva, la Lega sembra escluderla, ma se questo non dovesse nascere e si dovesse andare a un tentativo di maggioranza risicata ma nuova e diversa Camera e Senato, a quel punto si aprirebbe un capitolo completamente inedito, perché la somma di debolezze politiche in tutto lo schieramento politico si troverebbe a dare una risposta su quale legge elettorale varare, e come avete visto sui giornali di questo periodo le ipotesi sono tra le più varie, diverse e complicate, cioè non c'è un'ipotesi di convergenza già trattata o premasticata, almeno non che si sia visto fino a questo momento, quindi tutto si potrebbe molto complicare, però siccome è nello stile della politica italiana essere complicato, noi tendiamo invece a volerla vedere semplificata, perché intanto c'è chi ha scritto, è arrivato il 25 aprile oggi e lo ha scritto su Repubblica, il titolo riservato al commento di Repubblica firmato oggi da Massimo Giannini, e Massimo Giannini è con noi, è il vice direttore di Repubblica. Buongiorno Giannini, io nel salutarlo gli chiedo di spiegarci come e perché dal suo punto di vista, dal punto di vista di Repubblica, siamo davvero al 25 aprile, perché il 25 aprile è un giorno di svolta, fa pensare che oramai tutto è alle spalle e inizia una storia nuova, ma è così Massimo? Buongiorno intanto, ma il 25 aprile l'ho evocato, l'abbiamo evocato per una ragione molto semplice, e cioè io ritengo che in questo momento la cosa più importante per il Paese, purtroppo, dico purtroppo perché non era certo l'esito che tutti potevamo immaginare dopo il clamoroso trionfo del 13 aprile del 2008, è che questo governo ha raggiunto il suo capolinea. Continuare così io credo che sarebbe un enorme danno per il nostro Paese. Quindi da questo punto di vista il fatto che si arrivi comunque finalmente, sia pure drammaticamente, ad un epilogo per un esecutivo che ormai da diversi mesi ha smesso di governare il Paese, ha ammesso che l'abbia mai fatto, diciamo che fino a un anno e mezzo fa poteva rivendicare dalla sua almeno una gestione nella primissima fase sufficientemente spendibile, sia del terremoto dell'Aquila sia della gestione dei rifiuti. Ecco, da allora sono passati appunto più di un anno e mezzo, non c'è stato più niente, se non un fine tuning, una gestione diciamo così conservativa del nostro bilancio pubblico, che ci ha messo al riparo dal rischio di default, ma non ha consentito al Paese di riprendere il percorso della crescita che invece altrove è già partito. E quindi ripeto, io penso che la prima cosa importante, il primo risultato pratico che va salutato da questo punto di vista, solo da questo punto di vista, con favore, è che si pone fine ad una situazione di assoluta confusione e conflittualità che questo governo ormai inglobava dentro di sé. Quindi questo capitolo si chiude. Adesso quello che succede è tutto da verificare, tutto da vedere, e sotto questo profilo io capisco e condivido tutti i dubbi che circolano e che avete appena espresso. Non è facile uscire da questa crisi, però è importante che intanto si ponga la parola fine e si cominci a ragionare su quello che si può fare per consentire a questo Paese di uscire da questa situazione di assoluta ingovernabilità nella quale l'ha precipitato il Presidente del Consiglio. Ricordiamo che aveva la più grande maggioranza della storia repubblicana e solo dopo due anni e mezzo di cammino si ritrova alle soglie della fuoriuscita da Palazzo Chigi. Abbiamo collegato con noi Mario Baldassarri, il senatore Baldassarri che presiede la Commissione Finanze del Senato e di Futura Libertà, lo abbiamo spesso ospite ai nostri microfoni per la sua competenza sull'economia, la finanza eccetera, e poi è una persona equilibrata, lo conoscete, quando Mario Baldassarri interviene è difficile trovargli dei toni di analisi che non siano fondati su dei presupposti solidi. Proprio per questo l'ho voluto stamane, per darci una visione che è di Futura Libertà, quindi solidamente incardinata nella scelta dell'onorevole Fini, eppure ha una notevole capacità e garanzia di tenere conto delle preoccupazioni che il mondo dell'impresa, delle industrie chiedono da mesi di cambiare marcia rispetto all'inazione che Massimo Giannini, secondo me, giustamente richiamava essere stato uno dei tratti proprio dell'ultimo periodo delle difficoltà del governo attuale. Cosa dobbiamo pensare, Mario Baldassarri? I tempi di questo, vista la risposta di Berlusconi di ieri che dice non ci penso neanche, quali possono essere i futuri sviluppi se Berlusconi resta a braccia conserte in attesa che voi formalizziate in voti contrari al governo? È un po' la cosa del Cerino, è il tentativo di chiarire le cose di fronte al Quirinale, è anche un tentativo che a quel punto renderebbe ancora più complicato al Quirinale però affidare davvero all'onorevole Berlusconi il reincarico per fare quello che l'onorevole Fini le ha chiesto. Ma insomma, che attendersi, Baldassarri? Buongiorno, intanto buongiorno a lei e agli ascoltatori. Ma in realtà bisogna tornare a parlare sul serio di politica vera e seria, e credo che il presidente Fini ieri abbia indicato una strada. Più di un anno fa personalmente avevo presentato durante la legge finanziaria dell'anno scorso una proposta più forte, aggiuntiva, ma noi dobbiamo partire da un punto di fondo. Vediamo se questo punto di analisi è condiviso. Allora, questo che abbiamo di fronte non è più il centrodestra originario. Il Partito del Popolo della Libertà non è più quello dell'origine e soprattutto questo governo non sta realizzando il programma votato dagli elettori. Quello che abbiamo di fronte oggi è palesemente, ormai è una constatazione, credo, condivisibile. Un governo a trazione leghista, con il ministro dell'economia che fa da apripista rispetto a questa trazione leghista, il presidente del Consiglio è di fatto esautorato perché politicamente ogni lunedì va a cena con Bossi e poi prende le sue decisioni, sulla politica economica ha delegato totalmente il ministro dell'economia e quindi il presidente del Consiglio fa il ministro degli esteri. Giustamente lo fa anche bene da questo punto di vista. Questa è la situazione di partenza. Ne deriva chiaramente uno squilibrio palese nel governo e uno squilibrio palese nell'agenda di governo, perché l'agenda di governo sembra limitarsi da un lato al problema del lodo Alfano e quindi del problema di dare diritti e doveri al Presidente del Consiglio eletto di dover governare. Dall'altro lato il federalismo fiscale che va realizzato ma va anche verificato concretamente sul campo e la terza gamba è il cosiddetto rigore finanziario che però ha mirato a mantenere sotto controllo giustamente il deficit, il debito, cioè i saldi finanziari, ma il modo con cui ha ottenuto questo risultato è quello tradizionale della sinistra, cioè più tasse e più spesa pubblica corrente. La conseguenza sull'Italia è che questo modo di mantenere i saldi finanziari giustamente sotto controllo è in qualche modo masochistico perché deprime la crescita e deprime l'occupazione, quindi dal punto di vista delle prospettive strutturali è addirittura controproducente. Questo è il quadro di partenza. Allora, su questo quadro di partenza ci sono due strade: o questo governo continua a tirare a campare per non tirare le cuoia, e questa è la vecchia battuta di Andreotti, oppure c'è un salto di qualità. E da questo punto di vista, paradossalmente, l'offerta che il presidente Fini ha fatto ieri a Bastia Umbra al presidente del Consiglio è un'offerta generosa, nel senso che chiede al presidente del Consiglio di assumere la responsabilità in prima persona, mantenendo la sua leadership di primo ministro, di valutare se una ricomposizione, un rilancio complessivo del centrodestra che fa riferimento al Partito Popolare Europeo, in termini sia di equilibrio di governo, sia di agenda di governo, se questa opportunità esiste, ecco, questo è il vero patto di legislatura. Non possono essere semplicemente i cinque titoletti dei cinque punti di Berlusconi che noi abbiamo votato con la fiducia, ma abbiamo sempre detto dopo i titoli bisogna sedersi al tavolo e scrivere concretamente cosa c'è dietro quei titoli. E in più l'ultimo elemento, è evidente che se si dovesse andare a votare una persona di buon senso direbbe che è necessario cambiare la legge elettorale, perché con questa legge elettorale magari si sceglie il governo, il Presidente del Consiglio, ma si demanda ai partiti e ai leader la scelta dei rappresentanti. Ora, la democrazia compiuta non è tanto andare a votare, perché anche i dittatori fanno votare, anzi costringono al voto a volte. La democrazia compiuta è quando l'elettore, votando, determina democraticamente la scelta del governo e la scelta di chi lo rappresenta in Parlamento. Ecco, questo molto pacatamente, questa è politica. Tutto il resto sono polveroni polemici, ovviamente, che non portano da nessuna parte. A questo punto il bivio è abbastanza chiaro. È al Presidente del Consiglio che spetta la responsabilità di prendere atto della situazione attuale di governo e di agenda di governo e valutare se sia possibile rilanciare il vero centrodestra equilibrato con tutte le componenti che fanno riferimento al Partito Popolare Europeo e quindi di conseguenza fare un nuovo governo e una nuova agenda di governo da qui al 2013. Ora, sulla prospettiva di questa strada difficile, non tanto a dire la verità, fondata sulla cooperazione e il rilancio tra Futura Libertà, l'onorevole Fini e il PDL di Berlusconi, quanto su quello che può avvenire nel caso di mancato raccoglimento da parte di Berlusconi di questa proposta lanciata ieri da Fini, si interroga sul Corriere della Sera oggi Francesco Verderami, che è collegato con noi. E Francesco Verderami nel suo articolo comincia dicendo: si può vivere certo da separati in casa, lo hanno fatto per mesi Fini e Berlusconi, ma quello che non si può fare quando si è divorziato è vivere sotto lo stesso tetto. E nel prosieguo dell'articolo Verderami a un certo punto non è che escluda che davvero poi Berlusconi possa anche passare indenne a un voto parlamentare senza Futura Libertà. Io ho le mie perplessità su questo, quindi è per questo la domanda a Francesco Verderami, che poi nel prosieguo dell'articolo si interroga e descrive lo scenario con Futura Libertà e UDC che trattano con il PD sull'ipotesi del governo d'emergenza. Ma esiste davvero, Verderami, l'ipotesi che Berlusconi ce la possa fare, sia pure per il rotto della cuffia, senza Futura Libertà sia alla Camera che al Senato, secondo lei? No, io ho valutato tutte le possibili opzioni per capire chi possa avere un asso in mano, e un asso in mano oggi non ce l'ha nessuno, però nel senso che praticamente nessuno, intanto buongiorno, chiedo scusa, nessuno oggi almeno dà l'idea di avere la carta vincente, e tuttavia ci sono due cose che vanno sottolineate. Se siamo dinanzi al 25 aprile, vorrebbe dire, a parte naturalmente il richiamo alla tirannide di Berlusconi, che la fase berlusconiana è finita, e invece se la guardiamo sotto l'aspetto così di cronaca, questa fase non è ancora finita e non è detta che finisca. Il secondo punto: non spetta a Berlusconi, visto che si parla del cerino, spegnerlo, perché Berlusconi ieri si è ritrovato dinanzi alla proposta del presidente Fini e ha fatto sapere in maniera ufficiosa, ufficiale, insomma è chiaro che non accetta la proposta di Fini. In molti hanno spiegato il perché può significare, ad esempio, che aprendo una trattativa, aprendo intanto una crisi di governo e quindi esponendosi di fatto senza più Palazzo Chigi, senza più la copertura di Palazzo Chigi, chi ai tempi della Prima Repubblica aveva i pantaloni corti ricorda un Presidente del Consiglio che avviava le consultazioni in questo modo, dopo una settimana aveva già qualche difficoltà, dopo due incominciava a naspare, alla terza arrivava un nuovo Presidente del Consiglio incaricato. Quindi toccherebbe a Future Libertà staccare la spina togliendo la delegazione dal governo di Berlusconi. Anche in questo caso comunque non saremmo al giro finale, perché dopo di questo potrebbe venire da parte di Future Libertà il cosiddetto appoggio esterno al governo. Allora si è cercato di verificare se ci sono possibili alchimie di governi tecnici, e naturalmente non mi sostituisco al capo dello Stato, né tantomeno in questo momento ne avrei il desiderio, ipotizzando un governo con una maggioranza risicatissima al Senato e piuttosto eterogenea, chiamata ad affrontare senza l'appoggio del PDL e della Lega un passaggio difficile quale quello della finanziaria, della legge di stabilità, perché anche lì c'è un problema, poi magari il professor Baldassarri ci spiegherà meglio, c'è il rischio che queste tensioni politiche si scarichino sulla legge di stabilità e poi affrontare la riforma della legge elettorale, ripeto, con una maggioranza risicatissima alla Camera e soprattutto al Senato, e con i partiti che hanno vinto le passate elezioni all'opposizione. Faccio notare un'ultima cosa, ma come dato di cronaca, se in tutto diciamo il mondo occidentale, e ringraziando Dio ancora lì ci siamo, i capi di Stato e di Governo che sono andati a affrontare le elezioni di medio termine hanno sempre dovuto, come dire, subire sonore sconfitte, l'Italia è l'unico paese nel quale il Presidente del Consiglio e la maggioranza che avevano vinto le elezioni politiche hanno poi vinto tutte le elezioni, diciamo così, di passaggio, dalle amministrative alle europee, fino alle regionali di poco tempo fa, durante le quali, vorrei ricordare, il centrodestra per inettitudine, per conflitti intestini e tutto ce lo ricordiamo, non presentò la lista del PDL nel Lazio e nonostante questo riuscì a conquistare la poltrona di governatore alla Polverini. Questo è il percorso, diciamo così, numerico. Sul percorso politico è chiaro che il conflitto tra Berlusconi e Fini è figlio di una battaglia politica, e questo però va riconosciuto al centrodestra, di una battaglia politica giocata tra Berlusconi e Fini per anni, fin dal 1996, fin dai tempi del tentativo poi saltato del governo Maccanico, per poi passare ai referendum elettorali, per poi passare alle europee con l'elefantino, in cui Fini e Berlusconi hanno battagliato per la leadership, cosa che non è mai successa nel centro-sinistra. No, verissimo. Hanno battagliato per la leadership e dunque nel centro-destra c'è stata una competizione politica, non c'è stato un tiranno né una persona come Gianfranco Fini, che è un uomo politico molto navigato e che è stato succube, semplicemente uno scontro politico vero, elettorale. Poi siamo arrivati alla partita conclusiva, quella del PDL, e qui, a mio modesto avviso, ognuno con la sua parte di responsabilità, Berlusconi con una quota molto alta, ma Fini anche con la sua percentuale, si sono consegnati a una sconfitta, perché ieri si è celebrata la sconfitta politica, del fallimento politico del PDL di Berlusconi, ma anche di Fini, perché del PDL è stato cofondatore. Eh sì, benissimo. Ora pubblicità, torniamo tra poco. Massimo Giannini, chiedo, la crisi, l'ultima vera, profonda sviluppo che c'è stato, la crisi è una crisi che riguarda la leadership personale, la credibilità personale di Silvio Berlusconi, la sua etica, la coerenza tra i comportamenti privati e quello che si chiede a uno statista, a un leader che poi mette la faccia dell'Italia a rischio nel mondo, ecco, la coerenza tra tutto questo. Non c'è? È caduta la linea? Nel mentre questo aspetto che mi interessava porre a Massimo Giannini, perché è l'aspetto su cui Repubblica da sempre picchia e ripicchia con grande forza, con grande energia, ed è contemporaneamente l'aspetto che per molti anni, 16 anni, siamo abituati anche a considerare un aspetto che ha forti rischi di boomerang, per tutte le volte che l'aspetto personale, la critica dura nei confronti di Berlusconi è sembrata lì lì per intaccarne a fondo la sua leadership politica, tutte le volte Berlusconi, come l'Ercolino sempre in piedi, ha preso proprio forza dalla durezza di questi attacchi per riuscire a rivincere. E quindi volevo chiedere a Massimo Giannini se la linea è ripristinata. È ripristinata se anche questa volta non vi sia un po' questo rischio, cioè che la durezza di un giudizio di inappropriatezza totale di come Berlusconi personalmente svolge il suo ruolo di premier, questa volta che cosa ci fa, può farci pensare che la durezza di questo attacco sia una durezza destinata a farci voltare pagina, come diceva prima Massimo Giannini, oppure se ancora vi sia una possibilità che poi l'appello diretto in cui Berlusconi è bravo alla base elettorale degli italiani, di fronte al fatto che dice benissimo, di fronte a un nuovo traditore del centrodestra, Fini come ieri Casini e così via, mi attaccano, però io faccio l'appello e ce la rifà. E questa volta che cosa ci può far pensare che non sarà così, Massimo Giannini? Ma io penso che ce lo dovrebbe far pensare l'esperienza di questi mesi, perché le cronache politiche ci raccontano di un conflitto che ormai va avanti da molto tempo tra Berlusconi e Fini e tra Berlusconi, Fini e Bossi soprattutto. E da questo punto di vista tutto quello che stiamo dicendo, ascoltavo prima la giusta e come sempre acuta analisi che faceva Francesco Verderami su quello che può succedere e sul fatto che ancora nulla sia finito, è tutto verissimo, ma stiamo comunque parlando di una situazione, di un governo che ormai è in palese agonia, quindi quando anche si riuscisse in qualche modo a rimettere insieme i cocci ormai andati in frantumi, con un voto parlamentare, da questo punto di vista considero assolutamente legittimo il fatto che Berlusconi chieda che se sfiducia deve esserci, questa si deve produrre in Parlamento, ha perfettamente ragione su questo, ma quando anche riuscisse per miracolo, diciamo così, ad ottenere i voti in Parlamento che gli consentissero di andare avanti, quanto potrebbe durare e per fare che cosa soprattutto? Torniamo al problema dell'inazione del quale parlavamo prima. Un governo con queste caratteristiche, con questo tasso di conflittualità ormai chiaramente irriducibile, credo che su questo siamo tutti d'accordo, al suo interno, non può produrre nulla di buono per il Paese. Per questo io ritengo che al di là di tutti gli aspetti tecnici, che pure sono importanti e sarà fondamentale seguire nelle prossime settimane, il percorso sia ormai finito, questo governo non ha più nulla da dare né più nulla da dire. Io ritengo, se ragioniamo in termini di scenario, che l'ipotesi più plausibile, in attesa di capire chi abbia in mano l'asso, come diceva prima Francesco Verderami, siano le elezioni anticipate, proprio perché mi sembra che tutte le possibili ricuciture da una parte e dall'altra siano maledettamente complesse, anche per quanto riguarda Fini, il tentativo di mettere insieme una maggioranza alternativa con un cartello che vada dal PD all'Italia dei Valori, a Sinistra e Libertà, al Movimento per le Autonomie di Lombardo. Mi sembra una cosa abbastanza comunque avventurosa. Ma quindi tu dici a elezioni con questa legge elettorale? Io temo di sì, stavo proprio per aggiungere che quando poi si scende nel dettaglio ad esaminare i possibili modelli elettorali che potrebbero caratterizzare un'eventuale riforma, ci rendiamo conto che all'interno degli stessi partiti non ci sono due persone che la vedano allo stesso modo, quindi ho l'impressione che anche in questo caso rischieremmo un giro a vuoto, purtroppo, dico purtroppo perché tornare a votare con questa legge elettorale è chiaramente una iattura, però appunto ritengo che il piano inclinato che la politica ha ormai preso, con la forza d'urto che in presenza di una crisi conclamata o parlamentare o extraparlamentare, lo vedremo, Berlusconi comunque metterà in campo, e stanti queste difficoltà a trovare alternative per maggioranze diverse, io credo che alla fine l'idea delle elezioni anticipate nella prossima primavera sia quella più plausibile. Attualmente con questa legge elettorale non c'è proiezione fatta da addetti ai lavori che attribuisca al PDL guidato da Berlusconi, senza in quel caso Futuro e Libertà di Fini, maggioranza anche al Senato, quindi l'ipotesi attuale che tutti fanno, naturalmente bisogna vedere come e se si modificherà l'offerta politica, se nascerà un centro comune sommando diverse formazioni, quella di Casini, di Rutelli, un'eventuale discesa in campo di Montezemolo di cui molto si parla, però allo stato attuale l'ipotesi appena, secondo me, giustamente messa in campo da Giannini, l'improbabilità cioè di una maggioranza che possa davvero pensare a una modifica della legge elettorale, quando dipenderebbe da pochi senatori che molto probabilmente vorrebbero andare avanti per tutta la legislatura perché poi non saprebbero che fine fare, perché questo è il quadro attuale da tenere presente nel Senato di oggi, beh, una prospettiva di quel tipo improbabile. Oggi però votare con questa legge elettorale con ogni probabilità, al di là del referendum su Berlusconi sì, Berlusconi no, porta con ogni probabilità a non avere una maggioranza poi coerente e premi di maggioranza che scattano anche per il Senato, per quanto questa legge elettorale sia molto generosa come premi di maggioranza, però attualmente le simulazioni elettorali ci dicono questo. Baldassarri, capisco che l'interpretazione deve essere testuale delle parole di Fini di ieri, e quindi lei nel primo passaggio ci ha compiutamente descritto l'ipotesi di che cosa Berlusconi dovrebbe fare, prendendo sul serio questa offerta di una discontinuità da parte sua per un governo invece rafforzato stata una vera agenda. Però siccome è improbabile che questo avvenga, ammettiamolo, dovrebbe essere una specie di miracolo, no? Che Berlusconi e la Lega soprattutto sia disponibile ad accettare tutto questo, un allargamento poi al centro della maggioranza. La Lega la pensa diversamente. Nel qual caso, quello che ha appena detto Massimo Giannini e Baldassarri, cioè l'improbabilità di un passaggio che davvero sia in grado di riformare la legge elettorale, lo convince e a quel punto bisognerebbe prepararsi a votare con questa legge elettorale ed esiti improbabili oppure no? Come la vede Baldassarri? Ma intanto se Berlusconi accettasse la proposta dimostrerebbe un grande senso di responsabilità istituzionale verso gli italiani, perché noi qui stiamo discutendo giustamente di politica, di quadro, elezioni anticipate o meno, ma nel frattempo ci sono 22 milioni di famiglie che non sanno quali prospettive hanno, molti di questi milioni non arrivano a fine mese, ci sono centinaia di migliaia di piccole e medie imprese che magari in primavera dovranno chiudere i battenti, quindi attenzione anche agli effetti sull'economia reale. Seconda cosa, se Berlusconi non accetta questa proposta vuol dire automaticamente che accetta lo status quo, quindi un governo squilibrato verso la Lega e un'agenda di governo che non risponde più al programma elettorale votato dagli elettori. A quel punto lui può tentare di chiedere il voto e qui nasce la questione. Ma il voto anticipato a primavera risolverebbe il problema degli italiani, cioè una maggioranza forte, un governo stabile che possa fare le cosiddette riforme? Bene, da questo punto di vista intanto il presidente Fini ha chiaramente escluso altre maggioranze, altre commissioni e ha chiaramente ribadito che il nostro gruppo Futuro Libertà è nel centrodestra, ma vuole un centrodestra vero, serio, riformista, liberale, democratico. Questo è il punto, quindi al di là delle alchimie. Ma il tema è, se andiamo a votare, qual è la soluzione che uscirà dalle urne? Beh, ormai tutti lo sanno. Al nord stravince la Lega, al sud, con tutte le politiche che sono state fatte, prendendo i fondi FAS, togliendoli al sud e quindi usandoli per mille altre ragioni, non è che ci sia un grande consenso. E allora, in questo centrodestra PDL Lega avrebbe forse una maggioranza alla Camera, non avrebbe una maggioranza al Senato. Per di più, all'interno di quella coalizione la Lega peserebbe molto di più del PDL. E allora francamente non so fino a che punto allo stesso Presidente del Consiglio Berlusconi convenga fare la mossa del poker e buttare questo asso che dopo magari si dimostrerebbe semplicemente una figura di scarso valore. Ecco, adesso io devo interrompere perché ci sono le informazioni sulla circolazione stradale, ma questa considerazione, senatore Baldassarri, ma siamo sicuri che davvero a Berlusconi per primo, che dice sempre elezioni, queste elezioni che potrebbero essere la fine a quel punto del suo percorso politico, convengano davvero? Questa è una domanda secondo me molto seria, perché tutti abitualmente prendono la spavalderia con cui si dice elezioni come la vera exit strategy di Berlusconi, solo che è un exit strategy che per lui porta proprio all'uscita. La Lega ha tutto questo interesse, questo è evidente, lo dicono tutti i sondaggi, ma per Berlusconi è su questo che ci interrogheremo poi nel prosieguo, intanto le informazioni sulla circolazione stradale. Eccoci tornati in studio, in molti nostri ascoltatori dal nord leghista protestano durissimamente per i toni che abbiamo tenuto fino a questo momento nei confronti della Lega. Sentiamo due telefonate almeno dei tanti che ci hanno telefonato. Giampaolo chiama dalla provincia di Venezia, prego Giampaolo. Sì, Baldassarre nell'intervento di poc'anzi ha svelato la maschera, nel senso che questa manovra di palazzo ha un solo obiettivo, bloccare la Lega nella sua diciamo espansione in centro Italia e bloccare il processo federale. Fatalità, a breve ci saranno i decreti attuativi, quindi Fini ha trovato proprio il momento giusto per attaccare e far cadere il governo, per bloccare solo questo processo federale che è visto da gran parte della politica meridionalista in senso naturalmente negativo del termine, per bloccare appunto questo processo. E spero che questo discorso sia chiaro a tutti gli italiani e nelle prossime future elezioni ne prendano atto e rispondano di conseguenza. Oh, io mi è capitato di scrivere sul mio blog Chicago Blog qualche giorno fa e di sostenere un'interpretazione del prossimo voto, se si dovesse andare a votare così, con l'idea che di fronte alla confusione dell'offerta politica, sia pure riarticolata rispetto a come siamo abituati a considerarla in questo Parlamento, io sono convinto che a oggi è vero che il tema nord-sud sarebbe uno dei temi fondamentali del post-berlusconismo, con le alleanze politiche profondamente intrise di conflittualità sulla faccenda nord-sud, al di là poi del fatto, per essere concreti, l'abbiamo spiegato molte volte, che i decreti attuativi, in realtà tutta sta rivoluzione a danno del sud e di chi spende troppo e male, non la fanno, questo è il punto, perché poi stiamo parlando di una roba di cui i politici vi hanno illuso nel dire questo, che concretamente il costo standard non è nei decreti attuativi quello che, preso alla lettera, dovrebbe portare una parte del sud a temere. Non è così, ed è una cosa che vi abbiamo spiegato mille volte, numeri alla mano, però la politica ha questa capacità di andare sulla suggestione, ignorando poi che in concreto, nei numeri e nei fatti concreti dei provvedimenti, non mantiene poi quelle promesse che invece, prese sul serio dall'altra parte, fanno dire che siamo vicini a chissà quale rottura dell'unità nazionale. Nei decreti attuativi non c'è questa rottura, non c'è, lo ripeto per l'ennesima volta, ma comunque. Sentiamo Antonia da Roma come la pensa. Buongiorno a tutti, volevo dire questo, anzitutto insomma, dal mio punto di vista, ma non solo mio, da tanti che conosco, un paese moderno, cioè attuale, più avanzato dovrebbe avere due partiti, uno di destra, uno di sinistra, quando fa male uno si vota l'altro, insomma un po' all'americana, e non tanti partiti che si disputano tra loro. E poi sulla legge elettorale vorrei dire che temo anche, io che sono una purtroppo settantenne e mi ricordo il famigerato voto di scambio, ecco, non vorrei che si ripresentasse quelle opportunità, ti voto, per noi ti votiamo, noi famiglia, noi clan, noi paesino. Antonio, no, ma lei è convinto che non ci sia più oggi il voto di scambio? Posso chiedere? Questo, se ci sono candidati minori, forse ancora si accentua, lei dice. Lei si accentua. Bene, domanda a Verderami. Per Berlusconi il rischio di elezioni anticipate, cioè di fine vera della sua leadership a quel punto, perché va bene alla Lega, ma lui a quel punto non è più in grado di avercela una volta per sempre la maggioranza. Questo fattore non dovrebbe fare tara alla, quando lui dice ma allora andiamo alle elezioni, se avete il coraggio andiamo alle elezioni. Non c'è davvero questo rischio, Verderami? Ma non a caso il andiamo alle elezioni riempie diciamo così le pagine dei giornali quotidianamente con i virgolettati attribuiti a Berlusconi. Dopodiché Berlusconi alle elezioni non ci è voluto andare, perché la Lega aveva chiesto di andare subito allo showdown con Fini, e Tremonti, come si sa, era della partita, e Berlusconi non ha voluto andare alle elezioni anticipate. Ricordiamoci che Bossi lo ha sottolineato anche pubblicamente, e che Tremonti venne messo in minoranza nel PDL quando, senza dirlo, durante l'ufficio di presidenza praticamente lo sosteneva, anzi fu lasciato solo in questo senso. Giannini, un secondo solo, vediamo anche un altro aspetto della debolezza di fronte all'appello di dire andiamo al voto, al voto. Giannini, quanto pesa la sinistra che vediamo sui nostri occhi, le polemiche, Bersani da una parte, i rottamatori dall'altra, Vendola che si sente più forte ma sta fuori, dice che non andrà in piazza e così via. Tutto questo non è un'ulteriore cosa che agli occhi del Quirinale dovrebbe dire elezioni, ma come si fa ad andarci qui, né da una parte né dall'altra, ritengono che sia conveniente per loro? Quanto pesa la rottura e la polemica interna nel centro-sinistra per dare la spallata vera degli italiani nelle elezioni a Berlusconi? Ma certo, pesa molto. La sinistra è da mesi afona dal punto di vista politico, nonostante tutti gli sforzi di Pierluigi Bersani per dare un profilo riformista al Partito Democratico. Diciamo che l'esercizio della sua leadership è stato abbastanza debole alla fine, e per alcuni versi anche un po' deludente rispetto alle aspettative. Quindi ad oggi il Partito Democratico, nelle sue articolazioni e nelle sue possibili alleanze a sinistra, non rappresenta certo un'alternativa tale da considerare agevole anche il percorso delle elezioni anticipate nella prospettiva di avere un'altra maggioranza solida, stabile e durevole. Non è così, su questo non c'è dubbio. Però è anche vero che per le stesse ragioni è complesso, come dicevo prima, immaginare una maggioranza diversa a sostegno di un governo tecnico, istituzionale, di salute pubblica, come lo si vuole chiamare, non lo so, staremo a vedere. E sono abbastanza d'accordo anche sul fatto che lo stesso Berlusconi sia perplesso sulle elezioni anticipate. È troppo intelligente, ed è stato l'uomo che ha portato in Italia i sondaggi in politica, da non capire che in questo momento, anche sotto il profilo del consenso, lui non gode di grande beneficio da parte degli elettori. Però c'è un aspetto, lo scrive, lo recito di nuovo, Francesco Verderami, giustamente nel suo retroscena di oggi, è la questione dirimente per lui è la giustizia. Ricordiamo che il 14 dicembre la Consulta dovrà decidere sul legittimo impedimento. Quello è uno snodo fondamentale anche nella prospettiva, per Berlusconi intendo dire, elezioni anticipate sì, elezioni anticipate no, perché se lui perde lo scudo allora non c'è altra via che le elezioni anticipate, e in questo lui è il più bravo di tutti, dobbiamo ricordarlo. Se c'è una cosa che sa fare sono le campagne elettorali. E dobbiamo ringraziare Massimo Giannini, perché il tema della immunità, per così dire, del Presidente del Consiglio, che è il tema fondamentale da tanti anni, non lo avevamo toccato, e questo invece è un altro degli ingredienti che agli occhi del Presidente della Repubblica, nessuno lo invidia in questa fase, fa la differenza e farà la differenza. Una cosa è sicura, quel centrodestra che aveva stravinto e fondato tutto su leadership Berlusconi non c'è più. Questo è il punto di fronte al quale anche i suoi candidati sostenitori più caldi è meglio che si esercitino, perché devono ammettere che è così. Per il resto vedremo. Grazie a Mario Baldassare, grazie a Massimo Giannini, grazie a Francesco Verderami, a Filippo Reggi in regia, in redazione ad Antonella Migliaccio e a Franco Piantanida che mi ha assistito alla diretta. Lina al giornale radio, appuntamento a domani.